ragazzo mio, non piangere, se me ne vo lontano ti scriverò una lettera per dirti che ti amo. Vedo laggiù tra gli alberi la bianca mia casetta, vedo laggiù sulla porta la mamma che mi aspetta. Mamma, papà, non piangere, non sono più mondina, sono ritornata a casa a far la signorina. Mala nella casetta, mi sveglia la mammina.